America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York Mario Platero. Una borsa alquanto incerta, quella che abbiamo visto ieri a New York, un rialzo iniziale che ha portato l'indice Dow Jones al di sopra dei 10.000 punti, soglia psicologica importantissima, delusione successiva, chiusura meno 0,4% a quota 9.899, quindi ben sotto quota 10.000. Perché? Beh, intanto c'è stato un beige book, lo ricordiamo, e un rapporto che la Federal Reserve produce periodicamente sullo stato dell'economia americano, che non è stato straordinariamente ottimista, direi ha dato una visione di crescita dell'economia piuttosto stabile, con una ripresa dell'occupazione non rapidissima. Ma la cosa che ha colpito gli operatori è stata anche una dichiarazione della Merkel dalla Germania, la quale a un certo punto ha detto che forse è giunto il momento per smetterla con le manovre di stimolo, cosa che naturalmente ha preoccupato i mercati. Vedremo fra circa una mezz'ora, tre quarti d'ora, quale sarà qui a New York l'umore degli operatori. I think it is fair that these are the most significant sanctions that Iran has ever faced. Hillary Clinton, l'avete sentita, molto contenta. Il segretario di Stato americano dà una sua interpretazione delle sanzioni svolta ieri alle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato, vi dicevo appunto, le sanzioni contro l'Iran. Siamo arrivati alla fine di un lunghissimo percorso, una partita a scacchi che è durata anni e che l'amministrazione Obama ma ha poi cercato di giocare sapientemente, cercando di portare con sé Russia e Cina, due voti essenziali perché avrebbero avuto altrimenti il potere di veto se non fossero stati d'accordo su queste sanzioni. Sanzioni, poi le vedremo, sono abbastanza deboli alla fine, perché gli Stati Uniti hanno dovuto cedere al compromesso appunto con Cina e con Russia, ma soprattutto c'è stato un brutto scherzo per gli Stati Uniti da parte della Turchia e da parte del Brasile. Turchia e Brasile sono due alleati degli Stati Uniti sotto ogni punto di vista. La Turchia, poi ricordiamolo, è un membro importante, anzi importantissimo, della NATO, dell'Alleanza Atlantica. Ebbene, hanno votato tutti e due contro le sanzioni. Un voto dettato sul piano della giustificazione tecnica dal fatto che loro stessi avevano cercato di mediare un accordo per evitare che ci fossero sanzioni sull'Iran e di convincere l'Iran a cedere il suo uranio perché potesse essere arricchito da un'altra parte. Secondo me è un gioco delle parti, puro e semplice. Sia Turchia che Brasile, soprattutto il Brasile, avevano fatto degli accordi importanti sul piano economico con l'Iran, cercavano così di aiutare questo loro interlocutore commerciale e dunque hanno fatto una proposta che in realtà non aveva alcuna possibilità di andare da alcuna parte, perché l'Iran poi diceva che avrebbe continuato nonostante tutto il suo processo di arricchimento dell'uranio indipendentemente da quello che avrebbe accettato di dare fuori. Sentiamo cosa da dire a proposito l'ambasciatore brasiliano Maria Ribeiro. Brazil will vote against the draft resolution. In doing so, we are honoring the purposes that inspired us in the efforts that resulted in the Tehran Declaration of 17 May. We will do so because we do not see sanctions as an effective instrument in this case. Ecco, la spiegazione è naturalmente una spiegazione che cerca di attenuare un pochettino i toni delle differenze fra alleati, ovviamente, e la Ribeiro dice che sia il Brasile che la Turchia hanno cercato di portare avanti un'azione e quindi si sentono coerenti nel non appoggiare delle sanzioni, perché secondo loro la via d'uscita c'era, perché è importante non chiudere un dialogo e dunque si cerca di dare un tono positivo a tutta questa vicenda. La realtà, di nuovo, è che di questo ormai sul piano politico si parla molto qui a New York, nei corridoi del Palazzo di Vetro, ma anche a Washington, perché è chiaro che emerge un po' un disegno, soprattutto da parte della Turchia, che alza il tiro. Una Turchia che si sente proiettata molto più verso il Medio Oriente che non verso l'Europa, e bisogna aggiungere che non verso l'alleanza del Patatlantico, perché normalmente quando ci sono situazioni di questo genere, alla fine, essendo parte di un club ed essendo così rispettosi di una volontà della maggioranza, in genere poi si arriva a una dichiarazione di voto comune. Ecco, questo non è successo, e dunque significa che in Turchia, a Istanbul, c'è qualche cosa di più profondo che sta capitando, che non è necessariamente rassicurante e che ha un suo percorso. Inizialmente si è partiti con idea di cercare una mediazione che si sapeva che non sarebbe andata molto lontano. C'è stato poi l'avallo della missione navale per portare degli aiuti in Palestina, nella striscia di Gaza, sapendo che si sarebbero create comunque delle situazioni di tensione e di provocazione con gli israeliani, e adesso questo voto contrario alle sanzioni con l'Iran. Ecco, potrebbe essere un capitolo interessante che si apre, un sottocapitolo, diciamo, perché l'elemento dominante di oggi resta il fatto che comunque gli Stati Uniti sono riusciti a creare un consenso nel contesto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e che l'Iran a questo punto le sanzioni ce le ha. Sono delle sanzioni, dicevo, non durissime, perché non colpiscono certe esportazioni che avrebbero potuto creare delle difficoltà al regime, ma sono lo stesso delle sanzioni che prevedono, per esempio, la possibilità di ispezioni su certi trasporti navali per verificare che non ci siano materiali nucleari o d'armi. Sono stati banditi vendite o importazioni di armamenti pesanti all'Iran, compresi carri armati, blindati da combattimento, sistemi di artiglieria pesante, poi aerei, elicotteri, navi da guerra, armi balistiche e così via. E si è colpita la Guardia Rivoluzionaria, i Pasdaran, sul piano finanziario. Ci sono una quarantina di istituzioni che fanno capo a delle persone che non potranno più operare a livello internazionale come avevano operato finora. Dunque le sanzioni ci sono, Hillary Clinton dice che sono le più dure mai espresse finora, ci saranno in tempi brevi anche delle altre sanzioni, nuove sanzioni probabilmente concordate da Stati Uniti e Europa in modo più unilaterale. La pressione continua, la domanda di fondo è: cosa farà l'Iran? Cederà queste pressioni? Non lo so, non credo, ma tutto sommato l'importante è comunque inviare un segnale. Certo, se fosse stato inviato all'unanimità sarebbe stato sicuramente meglio. Karina Gore, figlia di Al Gore, ha seguito le tracce del padre, le orme del padre. Al Gore e la moglie Tipper hanno annunciato il divorzio qualche settimana fa, una settimana scorsa ve l'avevamo annunciato. Ebbene, anche Karina, figlia preferita di Al Gore, ha annunciato di aver cominciato la separazione dal marito Andrew Schiff, un bellissimo giovane newyorkese di antica famiglia della città, un finanziere. Sono stati sposati per 12 anni, ma vivevano già separati da un paio di mesi, e hanno tre bambini. Dunque un altro divorzio celebre nella famiglia Gore, bizzarro, che sia capitato alla distanza di una settimana gli uni dagli altri. La voce che avete sentito era di Karina, e presentava un suo libro dedicato a 9 donne importanti d'America. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare oggi a un cantante celebrity, Ricky Martin, il cantante portoricano, perché ha deciso di buttarsi a Broadway e reciterà nel musical Evita, a partire, devo dire, c'è parecchio tempo, dalla primavera del 2012, e interpreterà il personaggio del C'è. Ecco a voi Living La Vida Loca, una delle canzoni più famose di Ricky Martin. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing.